Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Abbiamo da pochi istanti sorpassato le 17.09. Buonasera a tutti da Deborah Rosciani e benvenuti a Focus Economia. Questa sera sono io a tenervi compagnia per la prossima ora, qualcosa in meno, per raccontarvi i principali temi economici della giornata. Focus Economia questa sera dura un po' di meno perché dopo le 18 daremo spazio ad uno speciale politico, ovviamente sulla giornata di oggi, su questa notizia che ovviamente ha dominato l'attenzione generale, più o meno attesa. Il governo ha incassato la fiducia della Camera, ne parleremo anche noi però a Focus Economia, perché a questo punto, e faremo un punto proprio con l'editorialista delle Sole 24 Ore Stefano Folli, faremo un punto sull'azione di governo da qui in avanti, soprattutto su quell'azione focalizzata sulle tematiche economiche che sono in primo piano e che a questo punto non sono più rinviabili. C'è attesa per l'emanazione del decreto sviluppo, la nomina del governatore della Banca d'Italia, perché ricordate che il 1 novembre Mario Draghi sale sullo scranno di Francoforte della Banca Centrale Europea, i tagli ai ministeri, l'ira di molti ministri, fra cui quello della Prestigiacomo, che viene riportata oggi da tutti quanti i giornali. Ne parleremo appunto all'inizio della nostra trasmissione. Poi altri temi che approfondiremo: il G20 di Parigi al via da oggi. Tra i vari temi dei quali si discuterà, ovviamente troverà grande spazio, anche se senza misure e decisioni risolutive, la crisi del debito sovrano dell'Eurozona. Ma a quanto pare un tema all'ordine del giorno molto importante sarà l'ampliamento delle risorse del Fondo Monetario Internazionale, un aumento delle sue capacità, appunto proprio perché evidentemente c'è necessità che questo organismo mondiale si metta maggiormente a disposizione della crisi internazionale. Oggi le borse sono in forte recupero dopo i cali di ieri, ed è stato un calo ieri, lo ricordiamo, molto marcato soprattutto per Piazza Affari, che è entrata nuovamente in tensione per il crollo dei titoli bancari, ma anche sul fronte obbligazionario ieri sul mercato italiano c'è stata grande tensione perché lo spread è riesploso oltre i 370 punti, livello oltre il quale ha viaggiato anche oggi per l'intera giornata, ma a quanto pare oggi questa notizia ha trovato meno enfasi di ieri. Le borse però, appunto, vi dicevo, hanno recuperato notevolmente e ancora una volta ad essere protagonisti della seduta un po' gli stessi titoli di sempre: la Galassia Fiat, che viaggia sulle montagne russe, vive sedute come quelle dei titoli tecnologici di 10 anni fa. Ieri perdeva tantissimo tutta la scuderia dell'ingotto, oggi recupera tutti e tre i titoli della casa di Torino. Sono in questo momento i migliori, guadagnano oltre il 5-5,5%. La Popolare di Milano continua ad essere protagonista delle sedute di Milano. Oggi stanno andando bene i petroliferi con Eni e Saipem, che guadagnano pure sul 5%. Insomma, una giornata molto movimentata, ma almeno oggi in termini positivi. Vanno bene anche le altre borse europee, va bene anche Wall Street, oggi premiata da un buon dato sulle vendite al dettaglio. Come sapete, il mercato internazionale è ossessionato dall'andamento dei consumi statunitensi. Oggi c'è stato questo buon dato sulle vendite al dettaglio degli ultimi mesi e di conseguenza la borsa è corsa subito a riacquistare, appunto gli investitori sono subito corsi ad acquistare di nuovo azioni. Anche le trimestrali stanno andando bene perché oggi ha cominciato Google per quello che riguarda l'ambito tecnologico, il titolo è in crescita a Wall Street di oltre il 6%. Questi ed altri temi di cui parleremo quest'oggi, adesso andiamo ad ascoltare le nostre notizie in breve. Le nostre notizie in breve, come sempre, si aprono con uno sguardo all'andamento delle principali commodities che monitoriamo, le materie prime, il petrolio e l'oro. Il petrolio oggi a New York ha aperto con un discreto rialzo a $86,17 al barile. Per quello che riguarda invece l'oro, anche in questo caso abbiamo delle quotazioni in leggera crescita, $1,670,88 l'oncia. Andiamo ai dati macroeconomici internazionali. C'è un indicatore che dal punto di vista sociale sta spaventando parecchio la Cina, perché da molti mesi viene tenuta sotto stretta osservazione l'inflazione. Per fortuna in settembre abbiamo un dato in leggero calo, perché si è registrato un 6,1% rispetto allo scorso anno. Il dato ad agosto era del 6,2%, stiamo parlando naturalmente dell'indice dei prezzi al consumo cinese. L'inflazione in luglio era al 6,5%, al record da 3 anni, ma a quanto pare stiamo registrando qualche leggero segnale di raffreddamento. Dicevamo prima delle vendite al dettaglio americane. A settembre sono salite dell'1,1%. Gli economisti avevano puntato su un rialzo di questo indicatore, però più contenuto, dello 0,7%. Il dato è invariato di agosto. Il dato invariato di agosto è stato rivisto in rialzo dello 0,3%. Al netto del settore auto si è avuto un aumento dello 0,6%. Non è invece altrettanto buono il dato relativo alla fiducia dei consumatori, quindi mentre i consumi hanno ripreso quota, almeno in settembre, a giudicare da questo parametro, la fiducia viaggia invece ai minimi termini. L'indicatore misurato dall'Università del Michigan è sceso in ottobre ai minimi dal maggio del 1980. L'indicatore quota 57,5 punti dai 59,4 del mese di settembre. Il segretario del Tesoro americano Timothy Geithner è a Parigi in queste ore, dove naturalmente partecipa ai lavori del G20. Ha parlato, ha già rilasciato delle dichiarazioni, lo ha fatto in particolar modo in un'intervista alla CNBC. L'Europa si sta chiaramente muovendo verso una soluzione della crisi del debito, per fortuna lo ha riconosciuto, e ha anche detto che i timori per una recessione sono un po' diminuiti. La crescita è ancora lenta, però insomma, a quanto pare ci sono segnali di una leggera diminuzione di questa tendenza alla recessione. Relativamente al tema all'ordine del giorno del G20, e cioè l'ampliamento delle risorse del Fondo Monetario Internazionale, Geithner ha detto: il Fondo Monetario ha sostanziali risorse non impegnate che potrebbero essere usate per aiutare l'Europa a gestire la crisi del debito. Intanto ancora indicazioni che arrivano da Parigi. Francia e Germania lavorano in stretta collaborazione per trovare soluzioni durevoli alla crisi che minaccia la zona euro, e presenteranno le loro proposte comuni nel vertice europeo del prossimo 23 ottobre. Lo hanno affermato il ministro delle finanze tedesco Schauble, uscendo da un incontro con l'omologo francese Barouin e il presidente francese Nicolas Sarkozy. E nel corso dei prossimi 2 anni continueremo, è stato anche affermato, le nostre discussioni, ma abbiamo già raggiunto degli accordi che sono molto importanti su ricapitalizzazione delle banche e aumento della capacità appunto del fondo Salva Statis. Questa invece è una dichiarazione del ministro dell'economia francese Barouin. I creditori privati della Grecia, a partire dalle banche, riceveranno un taglio sui rimborsi loro spettanti superiore al 21% fino ad ora concordato. Questa è sempre dichiarazione attribuita al ministro delle finanze francesi, che ha spiegato che negli ultimi 3 mesi i mercati sono cambiati, sono peggiorati, e beh, se ne è accorto anche lui, e anche se abbiamo iniziato a ragionare sul 21% lo scorso luglio, il margine sarà probabilmente superiore, questo è abbastanza certo. Barouin però avrebbe definito eccessivo l'ipotesi di un haircut, cioè di un taglio appunto dei rimborsi superiore al 50%, un'ipotesi che era stata fatta nei giorni scorsi. E voi pensavate che oggi le agenzie di rating non si facessero sentire? Avete sbagliato, perché Standard & Poor's stanotte ha deciso di tagliare di nuovo il rating sulla Spagna da AA ad AA-, menzionando incerte prospettive di crescita e il probabile aggravamento della crisi del sistema finanziario spagnolo. Standard & Poor's ha mantenuto sulla Spagna anche l'outlook negativo. Fronte portoghese, che cosa succede? Il governo del premier conservatore portoghese Coenho ha deciso un nuovo duro giro di vite anti-deficit, con fra l'altro il taglio di tredicesima e quattordicesima dal 2012 per funzionari e pensionati con retribuzioni sopra 1.000 euro, però in aggiunta alle rigide misure di austerità già prese da luglio nel quadro del piano di salvataggio da 78 miliardi di euro che, come ricorderete, è stato concordato con Unione Europea e Fondo Monetario Internazionale. Parlavamo prima dello spread tra BTP e Bund, oggi di nuovo sui 370 punti base. Per la verità stamattina il mercato era partito un po' più tranquillo, lo spread era scivolato sui 360-363 punti base e si sono subito scatenate le voci, più o meno confermate peraltro in ambienti finanziari, che oggi la Banca Centrale Europea avrebbe acquistato di nuovo BTP italiani e bonus spagnoli sul mercato secondario. Gli acquisti appunto sarebbero stati concentrati basati su quelle scadenze che la banca centrale predilige in questo momento, titoli di Stato a 5-10 anni con tranche da circa 10 milioni di euro. Voglio ricordarvi, lo abbiamo fatto anche lungamente questa mattina a Salvadanaio, che tutto ciò che attiene alle tematiche della crisi è in corso di approfondimento da parte del Sole 24 Ore. La guida alla crisi, il terzo volume, sarà in edicola domani con il Sole 24 Ore, il costo aggiuntivo di 50 centesimi. È il terzo, quello di domani, di una serie di 8 libri dedicati al tema risparmio ed investimenti in tempo di crisi. Il terzo volume, quello appunto in edicola domani, si intitola La bussola per il risparmiatore. Andiamo a dati italiani. Oggi abbiamo avuto un dato relativamente all'inflazione che è salito al 3% nel nostro paese, cioè la rilevazione dell'Istat. Sono state riviste al ribasso, per fortuna, le stime provvisorie che attestavano un'indicazione al 3,1%. In ogni caso siamo in crescita rispetto ad agosto, quando l'inflazione, l'indice dei prezzi al consumo, si era attestato al 2,8%. Cosa spinge questo indicatore? Beh, ci sono i primi effetti dell'aumento dell'IVA, come sapete è stata portata al 21%, ma anche la benzina ha fatto la sua parte. Questo ambito dell'inflazione è cresciuto del 16,3%, il gasolio su base annua è cresciuto del 19,2%. Ma anche il carrello della spesa purtroppo non se la passa tanto bene, perché a settembre ha registrato un aumento dei prezzi superiori alla media per il raggruppamento dei prodotti acquistati con maggiore frequenza, appunto dal cibo ai carburanti. La crescita è stata del 3,7% su base annua. Ad agosto eravamo al 3,6%, contro un tasso di inflazione complessivo, come vi dicevo, che è al 3%, e abbiamo così raggiunto il livello più alto dal mese di ottobre del 2008, quando davvero la crisi finanziaria mordeva in maniera molto seria. Altri indicatori economici italiani: ad agosto le esportazioni del nostro paese sono rimaste quasi piatte rispetto a luglio, con un aumento congiunturale dello 0,1%, mentre le importazioni sono cresciute dello 0,9%. Anche in questo caso lo ha rilevato l'Istat, sottolineando che le vendite sono state spinte dai mercati europei. Oggi abbiamo le ultime notizie prima del nostro primo approfondimento. Abbiamo avuto intanto il bollettino di ottobre, bollettino economico della Banca d'Italia, dove si esprimono appunto delle preoccupazioni relativamente all'andamento ovviamente dei mercati, perché le tensioni sui mercati, dice Banca Italia, che hanno investito il nostro paese, rafforzano l'urgenza di politiche economiche che assicurino il risanamento dei conti pubblici e che affrontino le debolezze strutturali per spingere la crescita. E questo perché? Perché la crescita dell'Italia si è indebolita nel terzo trimestre. Secondo le stime di Via Nazionale, l'attività manifatturiera avrebbe fortemente rallentato nel complesso nel trimestre. Una riflessione anche sulle banche: le condizioni di fondo delle banche italiane rimangono solide, dice Banca d'Italia, aggiungendo che però le tensioni dei mercati rischiano di riflettersi in misura crescente sulle condizioni di accesso al credito. Un'ultima rilevazione sempre della Banca d'Italia riguarda, lo avete sentito anche nel giornale radio, il debito pubblico, che ad agosto è tornato sotto la soglia dei 1.900 miliardi di euro che era stata infranta in giugno. Per le notizie in breve è tutto, direi che adesso possiamo andare al nostro primo approfondimento di oggi. Allora, intanto, come sapete, a Focus Economia di economia ci occupiamo, però i temi del giorno li dobbiamo comunque anche indicare. Il tema del giorno nel nostro paese era la fiducia al governo, che è stata espressa dalla Camera con 316 voti a favore, 301 contrari. La maggioranza richiesta era di 309 voti, i votanti in tutto sono stati 617. Prima di tutto saluto il nostro editorialista, l'editorialista del Sole 24 Ore, Stefano Folli, in collegamento da Roma. Stefano, buonasera. Buonasera. Sentiamo alcune delle dichiarazioni di oggi rilasciate dal Premier. Al termine della votazione Silvio Berlusconi in Parlamento appunto si è fermato con i giornalisti e ha già anticipato quello che dovrà essere fatto nei prossimi giorni. Tutto ciò che ha anticipato peraltro anche oggi largamente dai giornali, prevediamo tagli dolorosi per i ministeri. Sentiamo Berlusconi. È chiaro che quando si decide come noi abbiamo deciso e come la Banca Centrale Europea ci ha chiesto di intervenire sul debito, questo lo si può fare naturalmente in due modi: o con una nuova tassazione, aumentando le imposte, o tagliando le spese. Noi siamo andati nelle due direzioni, dolorosamente abbiamo aumentato di un punto l'IVA e altrettanto dolorosamente abbiamo tagliato, ed oggi nel Consiglio dei Ministri dovremo trasformare questi tagli in tagli per ciascun ministero, e quindi è chiaro che i ministri interessati cercheranno di avere una contrazione minore possibile per quanto riguarda le cose di loro competenza, e noi discuteremo, e io mi auguro che, anzi sono sicuro, che arriveremo a delle decisioni di buon senso che saranno accolte da tutti. La prossima settimana Berlusconi promette arriverà il decreto per la crescita e lo sviluppo, e poi le misure sullo sviluppo saranno a costo zero, come chiede il ministro dell'economia. Tremonti è giustamente preoccupato di far quadrare il bilancio dello Stato, ma grazie, gli ha riconosciuto Berlusconi, alla sua politica abbiamo i conti in ordine. Sentiamo al Berlusconi al microfono del nostro Vincenzo Miglietta. Con la finanziaria praticamente, che prevede tagli dolorosi per quanto riguarda le spese e gli investimenti dei ministeri, e poi avremo la prossima settimana, immagino, perché ci stiamo lavorando, stiamo approfondendo ogni possibilità, il decreto per la crescita, il decreto per lo sviluppo. Il ministro Tremonti è naturalmente preoccupato, come è suo dovere di esserlo, del bilancio dello Stato, ed è grazie alla sua politica che noi abbiamo mantenuto i conti del bilancio in ordine, ed anzi siamo i primi della classe in Europa per l'avanzo primario, e anche per il deficit siamo largamente inferiori ad altri importanti paesi europei come la Francia e l'Inghilterra. E per quanto riguarda lo sviluppo, è naturalmente attento a che le misure non debbano incidere su questo, sul nostro bilancio. Stefano, io vorrei subito commentare con te questo pubblico riconoscimento all'azione del ministro Tremonti, che ha un sapore molto diverso rispetto ai fogli scrollati dietro le spalle del ministro qualche giorno fa, quando alla Camera si è consumata invece la bocciatura dell'articolo 1 del rendiconto generale dello Stato. Che sapore ha questo riconoscimento? Che ne pensi? E intanto un commento anche su questa fiducia di oggi, se secondo te è come l'avevi già descritta stamattina nel tuo commento sul Sole 24 Ore, nel tuo punto, svogliata o meno? È molto svogliata, perché non è connessa a un discorso programmatico in cui Berlusconi avesse fissato delle scadenze precise, chiare. Il discorso non conteneva niente che non fosse molto vago e generico, e d'altra parte questa è una maggioranza che non ha alternative, quindi svogliatamente, io ho scritto, si apprestava a dare una fiducia piuttosto risicata, ma comunque certamente rilevante da un punto di vista istituzionale. Avremmo avuto una crisi di governo senza una possibile alternativa, e quindi con uno sbocco di elezioni immediate. Rimane il fatto che i problemi sono tutti sul tavolo, a cominciare dal decreto dello sviluppo, che è ancora da scrivere, i problemi sono tutti lì. Il fatto che Berlusconi usi parole al miele per il suo ministro dell'economia non mi stupisce affatto, visto che abbiamo appena superato il voto di fiducia, e Berlusconi ha tutto l'interesse a non riaprire immediatamente un contenzioso, ma i problemi sono lì, riguardano tutte le questioni che c'erano già nei giorni scorsi e che non hanno trovato in questo passaggio parlamentare un componimento, un elemento di chiara indicazione di rotta. Che naturalmente la Lega sostiene Berlusconi, e questo permette al Presidente del Consiglio di andare avanti ancora per un po', ma questo è un voto che non garantisce la durata della legislatura. Ecco, al di là di quello che poi succede dietro le quinte, almeno pubblicamente, come dicevi, non ha il Presidente Berlusconi nessuna intenzione di inasprire il contenzioso con Tremonti, e però, a prescindere dal decreto sviluppo, arrivano anche i tagli lineari per i ministeri, però, e di conseguenza qualche altro attrito con altri ministri appunto sembra essere alle porte, Stefano. Assolutamente sì, ma non soltanto questo è, non è di poco conto naturalmente, Ma non è solo questo, che cosa sarà del condono fiscale? Quali saranno le linee di un decreto per lo sviluppo a costo zero? Nessuno lo sa, effettivamente le risorse non ci sono. È che Berlusconi non si può permettere oggi di riaprire immediatamente un conflitto con il Ministro dell'Economia, però io sono altrettanto certo che conosceremo presto delle nuove spine nei rapporti interni di governo e credo che avremo molti colpi di scena nelle prossime settimane. A proposito di colpi di scena, perché anche questo non è detto che sia dietro l'angolo, il 1 novembre il signor Mario Draghi se ne va a Francoforte e va a fare il presidente della Banca Centrale Europea. Noi fino a qualche minuto fa, mi viene da dire, avevamo un candidato eccellente nel segno della continuità del lavoro alla Banca d'Italia, che era quella appunto di Saccomanni. Poi si sono fatti altri nomi, sempre per esigenze appunto espresse con grande chiarezza dalla Lega. Su queste nomine di Banca d'Italia Berlusconi stamattina ha detto: non serve accelerare, perché per fare una nomina appropriata abbiamo tutto il tempo. Sentiamo cosa ha detto il Presidente del Consiglio. Io ho un appuntamento già previsto col Capo dello Stato dopo il Consiglio dei Ministri di oggi, però su temi che non attinevano alla situazione parlamentare. Andiamo anche, uno dei temi dell'incontro è anche questo. Abbiamo tempo e quindi, siccome ci sono tante possibilità in campo, cercheremo di uscire dai tempi della decisione entro la data che è quella del 1 novembre. Stefano, sulla nomina della Banca d'Italia, che tipo di scenario prevedi? Vedi e intravedi? Questa è la dimostrazione di quello che stavamo dicendo. I problemi sono tutti lì e il Presidente del Consiglio non riesce a esprimere il nome per la Banca d'Italia, che pure rientra pienamente nelle sue prerogative. Questa è una drammatica sensazione di impotenza per un Presidente del Consiglio che spesso dichiara che il Premier in Italia non ha poteri paragonabili a quelli dei primi ministri di altri paesi, e questo è un caso invece che qui si dimostra che, pur avendo il potere, poi non si sa esercitarlo. E Berlusconi aveva fatto capire nelle settimane scorse che si sarebbe orientato su Saccomanni, adesso invece dice che ci sono molti candidati. Palesemente non sa come uscire da questa vicenda. Il fatto che novembre non sia prossimo, ma insomma, per quanto sia sono 15 giorni, ti dimostra soltanto questo, che noi arriveremo all'ultimo minuto utile per fare una scelta che andava costruita prima, dando all'estero, soprattutto oltre che all'interno, l'immagine di una grande debolezza politica. Tra l'altro vedo che oggi Berlusconi incontra anche Bini Smaghi, il nostro componente del board della vicepresidente, che dovrebbe dimettersi, ma anche lì la cosa è piuttosto complicata. Eh sì, perché i tedeschi, sicuramente due italiani a Francoforte, non ne vogliono. Grazie a Stefano Folli, avrei voluto commentare con te anche la bozza della legge di stabilità che è stata divulgata in alcuni contenuti poco fa dalle agenzie. Vi leggo qualche punto: fra il 2012 e il 2013 carabinieri e polizia potranno contare su 60 milioni in meno. Questo è quanto prevede appunto la bozza della legge di stabilità, che è il nuovo nome dato appunto alla legge finanziaria, alla manovra finanziaria. Il taglio sarà di 10 milioni il prossimo anno e 50 nel 2013, e sarà ripartito al 50% fra i due corpi. Niente ticket ai dipendenti pubblici per le giornate lavorate meno di 8 ore con questa misura. La misura non si applica per i dipendenti del comparto sicurezza, difesa e ordine pubblico, e leggo proprio in diretta con voi queste prime indiscrezioni. Nella bozza della legge di stabilità in ingresso appunto al Consiglio dei Ministri è rimasto il comma, questa è una questione un po' complicata, che riscrive la norma sulla destinazione dei proventi aggiuntivi all'asta per le frequenze. Adesso io la notizia non la conosco bene, poi magari appunto ve la rileggo tra un attimo. Sono appunto proprio le prime indiscrezioni che sono in corso appunto di diramazione da parte delle agenzie sulla bozza della legge di stabilità. E allora, se abbiamo qualche dettaglio, ve lo racconto tra poco, dopo la nostra prima pausa e dopo avervi raccontato anche quello che è successo oggi in borsa. Sono le 17:39 abbondanti, adesso è tempo di raccontarvi la giornata di borsa. Una giornata che era partita bene questa mattina dopo i cali di ieri. Oggi la borsa si era subito indirizzata verso, come dire, il terreno degli acquisti. Poi la seduta ha segnato appunto un rafforzamento delle sue prestazioni grazie al dato sulle vendite al dettaglio americane, ma anche grazie anche alle indicazioni che si attendono e che emergeranno dal G20, di cui conosceremo i dettagli dei lavori di questi giorni fra qualche minuto con l'inviato del Sole 24 Ore Alessandro Merli. Adesso invece andiamo a sentire quali sono stati i temi del giorno, i temi sui quali hanno concentrato l'attenzione gli operatori relativamente al mercato italiano. Buonasera alla collega di Radio Cori del Sole 24 Ore, Eleonora Micheli. Eleonora. Buonasera. Allora, Milano certo che fa un po' sorridere quello che succede, oggi festeggia in qualche maniera la fiducia al governo, mentre ieri sempre la tensione politica aveva scatenato le vendite. Certo che se uno dovesse prendere a riferimento, come dire, la reazione del mercato di fronte alla politica, non ci capirebbe più niente. Eleonora, come la vedi? Sì, esatto, sicuramente il mercato ha comunque premiato la stabilità e il fatto che sia stata allontanata una crisi politica che ovviamente avrebbe innervosito ulteriormente gli investitori, amplificando l'incertezza. Poi ovviamente è tutto da vedere, perché come hai detto tu, spesso diciamo anche il giudizio del mercato non è sempre lineare e coerente. Oggi hanno di nuovo rimbalzato, questi sono titoli che si comportano, come ho detto prima, per la verità ce li abbiamo anche definiti più volte, come i titoli tecnologici degli inizi degli anni 2000, Fiat, Fiat Industrial, Exor, oggi rialzi di oltre il 5%, questi ormai viaggiano solo ed esclusivamente con prestazioni di questo tipo, o perdono il 6% o ne guadagnano 5-6, Eleonora. Sì, esatto, oggi comunque a dare il là agli ordini in acquisto sul settore auto, quindi non solo su Fiat ma anche su altri titoli europei, è stato il dato americano sulle vendite al dettaglio, che sono salite lo scorso settembre dell'1,1%, ma trascinate in alto proprio dal buon andamento delle vendite di auto, che in verità sono aumentate del 3,6%, tant'è che è andato bene, ripeto, tutto il comparto europeo, ma sempre a Piazza Affari ha fatto molto bene anche Pirelli, più 3,8%, che non è una società che produce auto ma produce comunque un prodotto un componente essenziale, direi, esatto, per l'auto. Andiamo ai pneumatici, naturalmente. In tutto questo mi sono dimenticata di dire quanto il FTSE MIB ha guadagnato alla fine della seduta, più 2,49%, il FTSE All Share più 2,47%. Andiamo oggi bene anche i petroliferi, vedo Saipem più 5,21 a 29 euro, Eni più 4,54 a 15,65 euro. Senti, la Popolare di Milano, miglior titolo, più 6,36%, quanto ha guadagnato questo titolo la settimana, in questa settimana? Nella settimana non ti so ben dire, ti ma so avrà dire fatto che il 30-40%, dal 21 di settembre, giorno in cui praticamente i titoli hanno imboccato la strada del rialzo, a parte qualche battuta d'arresto, sono sempre saliti, hanno guadagnato ormai circa il 50%. Anche oggi è stato il miglior titolo. Poi nel pomeriggio andavano molto bene tutte le banche, anche ad esempio Unicredit era arrivato a guadagnare oltre il 7%, sul finale hanno un po' tutte rallentato, Unicredit ad esempio si è portata a un guadagno del 2,3%, la stessa Intesa dell'1%, questo soprattutto perché è vero sì che ieri avevano perso punti e oggi si è tornati a scommettere sulle banche, ma ha raffreddato un po' gli animi Goldman Sachs, che è di nuovo tornata a ipotizzare la necessità che in Europa saranno necessarie una raffica di aumenti di capitale per i principali istituti, per un totale, secondo la banca d'affari, addirittura di 298 miliardi di euro. Anche se questa circostanza ha veramente scatenato l'ira dei banchieri tedeschi, che non vogliono neanche sentirne parlare, ma in ogni caso vedremo anche se qualche, come dire, dichiarazione distensiva su questo versante arriverà nel G20 di Parigi. Che cos'altro dobbiamo raccontare? Andiamo dall'altra parte della classifica. Finmeccanica meno 1,39%, ha portato con sé anche Ansaldo meno 0,38%. Di Ansaldo e possibili cessioni a società americane o altro non si parla più da qualche giorno. Oggi invece il mercato si è indirizzato in negativo su Finmeccanica. Perché, Eleonora? Perché in questo caso è stata HSBC a a calare la scure, a dare un giudizio negativo. Infatti la banca d'affari ha praticamente consigliato ai propri clienti di vendere le azioni e tra l'altro ha valutato l'azienda meno di quanto sia valutata dal mercato, con le azioni che sono scambiate a 5,3 euro, e non a caso infatti proprio Finmeccanica e Ansaldo STS tra i titoli a maggiore capitalizzazione sono stati gli unici ad andar giù, a perdere punti. E infatti sono gli unici due titoli negativi, poi quelli che guadagnano meno: Autogrill più 0,25, Monte dei Paschi più 0,39, Popolare dell'Emilia Romagna un rimbalzino oggi, questo invece per questo titolo flessione continua da settimane, oggi più 0,4%. Eleonora, grazie per essere stata con noi, buona serata. Buona serata. L'euro sul dollaro quota 1,3852, le altre borse europee: Parigi più 0,97, Francoforte più 0,89, Londra più 0,91, Wall Street, Dow Jones più 0,6, Nasdaq più 0,80%. Vi ricordo che su Investire in Borsa c'è un numero speciale domani delle Sole 24 Ore, uno speciale anche di Plus 24, il paracadute per tornare ad investire in borsa insieme alla bussola per i risparmiatori di cui vi ho già spiegato prima. Ci fermiamo, dopo i suggerimenti perché in viaggio andremo per qualche minuto a Parigi. Allora, volevo rispondere ad un ascoltatore che ci chiede: l'haircut della Grecia è sicuro o soltanto proposto? Adesso è solo proposto, cioè secondo me è un'operazione sicura, quello che si deve capire è in che percentuale verrà fatta. Riguarda anche i piccoli risparmiatori, temo di sì, bisognerà vedere le banche che hanno in pancia titoli greci che di sicuro attraverso fondi di investimenti o attraverso altri veicoli li hanno collocati sui risparmiatori, cosa decideranno di fare. Non abbiamo ancora la certezza di tutto questo, ovvio, perché chiaramente tutte le formalità vanno espletate, ma io direi che si va sicuramente verso questa strada. Chissà che non se ne parli di tutto questo anche a Parigi, dove è iniziata la riunione dei ministri delle finanze del G20. L'inviato del Sole 24 Ore Alessandro Merli, che saluta. Alessandro, buonasera. Sì, buonasera. Il vertice serve a preparare il summit di Cannes tra capi di Stato e di Governo, che si svolgerà il 3 e il 4 novembre. Saranno anche temi indigesti, quelli dei quali devono discutere, ma le località che scelgono sono sempre molto rinomate, molto belle. Alessandro, allora, non si attendono decisioni conclusive né sul sostegno alla soluzione della crisi dell'Eurozona, né passi avanti concreti verso un appianamento delle tensioni politiche sui cambi fra per esempio Stati Uniti e Cina sullo yuan ancora ritenuto sopravvalutato? E però qualche cosa di importante potrebbe essere deciso relativamente alla dotazione finanziaria del Fondo Monetario Internazionale. Che cosa potrebbe essere deciso e con che obiettivi? Ma diciamo che questa è una riunione preparatoria e quindi ancora molte cose sono in aria, però è vero che i tempi ormai stringono, cioè gli europei si sono impegnati a presentare entro il vertice di Cannes, quindi entro il 3-4 di novembre, un piano concreto, ed è chiaro che a questa riunione gli altri membri del G20, soprattutto gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, ma anche i cosiddetti BRICS, cioè i grandi paesi emergenti, faranno pressione sugli europei perché comincino a presentare delle soluzioni. Da parte loro, come hai accennato, i BRICS sono disposti a fornire delle risorse al Fondo Monetario Internazionale per intervenire eventualmente nella crisi europea. Le modalità di questa operazione ancora sono da definire, però sarebbe un segnale che i BRICS intendono giocare un ruolo più importante sulla scena internazionale di quello che non abbiano fatto fino adesso. Sicuramente hanno le risorse disponibili, soprattutto Cina e Brasile. Per quello che riguarda la crisi europea, va segnalato che c'è stato oggi un incontro bilaterale fra i ministri finanziari di Francia e Germania, la presenza, anzi ospiti, del presidente francese Nicolas Sarkozy. I due hanno segnalato di aver fatto altri passi avanti. Per il momento però, come dopo il vertice Sarkozy-Merkel di domenica scorsa, dettagli non ne sono emersi. Alessandro, purtroppo devo salutarti perché abbiamo altri temi da affrontare e oggi Focus Economia dura un po' meno, ma sicuramente ti coinvolgeremo più volte nel corso dei prossimi giornali radio. Intanto grazie, buona serata e buon lavoro. Grazie a voi. E noi adesso cambiamo argomento. Cambiamo argomento e parliamo di tutt'altro tema, un tema che fa davvero imbufalire molti imprenditori italiani, perché sono alle prese con i ritardi dei tempi di pagamento della pubblica amministrazione da parte, per esempio, delle amministrazioni pubbliche, delle ASL. C'è un fenomeno interessante in costante crescita nel nostro paese, è il factoring, che costituisce un vero e proprio strumento di outsourcing nella gestione dei crediti, tenere la contabilità, collarsi i rischi di eventuali inadempimenti, gestire e riscuotere i pagamenti dei clienti. Sono tutte attività che implicano, lo sappiamo bene, un costo non indifferente per le imprese, soprattutto quando i debitori accumulano ritardi nei pagamenti, e questo è il momento in cui interviene il cosiddetto factoring finanziario, che è un contratto che consente alle aziende di cedere a terzi i propri crediti, le proprie rogne praticamente, ottenendo immediatamente o alla scadenza il loro valore nominale al netto dei costi di compravendita e gestione. La società finanziaria acquirente viene detta factor, le commissioni applicate rappresentano il suo guadagno rispetto al prezzo pieno di acquisto. L'impresa cedente si trova a pagare un costo fisso in cambio della possibilità di liquidare in tutta sicurezza i propri crediti, smobilitando importanti risorse finanziarie. Questo settore nel nostro paese vale 137 miliardi di euro, in Europa vale oltre 1000 miliardi di euro, a livello mondiale 1600, per cui effettivamente il mercato italiano è molto vivace, molto interessante. Sebastiano Barisoni ha intervistato il professor Alessandro Carretta, segretario generale di Assifact, l'associazione italiana per il factoring, e gli ha chiesto di spiegarci esattamente come funziona questo settore. Sentiamo. Anticiperò una parte che può arrivare fino all'80-85% del valore nominale del credito, te li anticipo subito. A fronte di questo servizio di anticipazione, tu imprenditore pagherai un tasso di interesse che attualmente è più basso, e con questo la società di factoring copre i propri rischi, che sono più bassi rispetto ai rischi di un finanziamento tradizionale, perché la società di factoring ha due paio di occhiali per guardare l'operazione. Uno è il paio di occhiali tradizionale del finanziatore, che guarda la bontà dell'impresa, ma l'altro paio di occhiali è quello che riguarda la qualità del credito. Se la ASL, come è probabile, comunque il debitore ceduto avrà un ritardo rispetto a quanto avvenuto, pagherà un tasso di interesse che più o meno è in linea con i costi dei finanziamenti bancari, ma ancora una volta il rischio incorporato è più basso, quindi la società di factoring comunque avrà un guadagno, che poi è testimoniato dai bilanci delle società, che sono bilanci sani con una buona redditività che si è mantenuta anche in questi ultimi anni superiore a quella delle banche, perché i rischi dell'operazione sono bassi. La cessione prosolvendo è quella nella quale il rischio dell'operazione, quindi il rischio che il debitore non paghi, rimane in carico al fornitore dell'ASL, mentre nell'operazione prosoluto la cessione del credito non solo totale in termini di importo, ma comporta un'assunzione del rischio. E secondo una ricerca di GE Capital, General Electric Capital, il factoring, ossia la particolare forma di finanziamento di cui avete appena sentito il funzionamento, basato sulla cessione del credito, potrebbe, se maggiormente utilizzato, fornire un buon contributo alla crescita dell'economia italiana. Sentiamo Luca Burraffato, amministratore delegato di General Electric Capital Finance, intervistato da Giacomo Segantini. Il factoring è un prodotto di finanziamento con il quale un'azienda cede a una società di factor i crediti rappresentati da fatture che vanta nei confronti dei propri clienti acquirenti. La società di factoring può dare fondamentalmente tre tipi di servizi: un servizio di finanziamento a breve termine, il servizio di riassicurazione dei crediti ceduti, cioè garantisce la solvenza dei debitori, quindi si accolla al rischio di solvenza dei debitori, e il terzo servizio è un servizio di incasso che viene fatto dalla società di factoring nei confronti dei debitori dell'azienda che cede questi crediti. Dato che si parla di factoring come forma di finanziamento, mi sembra di capire che l'aspetto più interessante sia quello di monetizzare un asset che un'azienda ha, appunto i crediti che vanta nei confronti di altre aziende, monetizzare, diciamo, in anticipo, non so come dire. Questo è il servizio principale, ma quello che differenzia dagli altri prodotti bancari è il fatto che comunque la società di factoring si può anche assumere il rischio di insolvenza dei crediti ceduti. C'è un impatto potenziale molto interessante per il PIL italiano, mi sembra di capire. GE Capital ha richiesto a un advisor esterno di svolgere questa ricerca, e ne è emerso che potenzialmente nel 2020 il maggior ricorso al factoring può produrre un impatto incrementale in termini di PIL di 12,2 miliardi su base trimestrale. E anche oggi abbiamo conosciuto un settore nuovo, vedo che peraltro avrebbe scatenato anche l'attenzione dei nostri ascoltatori, molti hanno commentato quello che abbiamo appena raccontato, il funzionamento del factoring, ma magari Sebastiano Barisoni ci ritornerà più presto. Per quello che mi riguarda io ho terminato qua, grazie a tutti per averci seguito, Focus Economia torna lunedì prossimo, se non mi ricordo male ci sarà Simone Spezia, buon fine settimana a tutti.